si formano le schiere, i battaglioni che van marciando verso la stazione. Hanno lasciato il loro paesello, cantando al vento un gaio ritornello. Il treno parte ad ogni finestrino, ripete allegramente soldatini. Io ti saluto e vado in Abissinia, cara Virginia, ma tornerò. Appena giunto nell'accampamento, dal reggimento ti scriverò. Ti manderò all'Africa un bel fior, che nasce sotto il cielo dell'Equatore. Io ti saluto e vado in Abissinia, cara Virginia, ma tornerò. Quel giovane soldato tutto ardore, che ha lì sul petto i segni del valore, e vanno insieme pieni di gaiezza, cantando gli inni della giovinezza. E il vecchio fante che non può partire, rimpiange in cuore di non poter dire. Io ti saluto e vado in Abissinia, cara Virginia, ma tornerò. Appena giunto nell'accampamento, dal reggimento ti scriverò. Ti manderò dall'Africa un bel fior, che nasce sotto il cielo dell'Equatore. Io ti saluto e vado in Abissinia, cara Virginia, ma tornerò.